9 mesi dal ritorno mio. Ci trovammo a Nova Gorica a parlare di catechismo per convincere i bambini. E tutti con le spade, stavolta con la punta e con il filo. Io, 12 stronzi con me, come faccio a scordarti, Madeleine? Io, 12 stronzi con me, come faccio a scordarti, Madeleine? Fu così che la passione che io stesso dedicavo alle tue cosce e ai tuoi occhi così neri mi è sfuggita dalle mani e ha ridato nuova linfa ai miei compagni. Hanno deciso di formare un'avanguardia cyberfolk e di chiamarla i nuovi partigiani.